la bocca di chi va bene. Si tu la parla la pizza nelle mani. Quando so che la mano so che tu vai. Come te ne entrate ti dai d'odio. Papà l'americano. Papa l'americano.